Beh, per i vrei. Beh, per i vrei, aspetta un attimo, sto cambiando la batteria, fra. Ehi, ehi. Ah, ci vedi, per i vrei. Ciao, buongiorno. Aspetta che spengo la radio. C'è anche Luca che sta facendo dei lavori su un telefono sicuramente. Accidenti, aspetta che spengo, non riesco. Aspetta un attimo. Non riuscivo a spegnere il telefonino. Perché mi si era messo il blocco là. Vabbè dai, comunque adesso lo sento. Ehi, ehi, ascolta, sto usando l'MB-5 con il 430, com'è la modulazione? Bella come l'MC-60, notte differenza, com'è? Bellissima, bellissima, va benissimo. Vabbè, l'MC-60 forse è un po' più forte, però è bellissima questa, proprio bella, bella, bella. Io vabbè, per essere uguale all'MC-60 basta sollevarla appena. Un attacco in più, perché non mi posso ascoltare, non c'ho altra radio per ascoltarmi. Ho capito. No, va benissimo, andava bene anche prima, anzi forse andava anche meglio, perché si sente meno il rumore di fondo, ventola o cosa è, andava anche meglio prima, era più pulita, dai, però è sempre bellissima. E la ventola dell'alimentatore, purtroppo queste ventole si sentono. Adesso lo spengo. Sì, sono una porcheria, vanno bene come alimentatore, vanno bene, ma questo fatto della ventola è proprio uno schifo. Non si possono certamente mettere indietro i vecchi alimentatori, quelli tradizionali, a trasformatore direttamente, non switching. Ma infatti, adesso uno lo spento l'alimentatore, che è quello che alimenta il barattino, quello veicolare, intanto è spento, e l'ho spento uno, vabbè. Purtroppo è così, anzi, diciamo che quelli che ci ho io sono abbastanza silenziosi, ce ne sono che si sentono in lontananza. Sì, no, ma va bene, così va bene, non c'è problema. Poi quando parli copri tutto, non un eventuale rumore che ci possa essere, quando parli poi copri tutto. E vabbè, è una cosa normale, se c'è un aumento dell'alimentazione devi sentire. Poco fare un 40 metri, era un radioamatore, minchia, sentiva più la ventola dell'amplificatore che lui parlando, fuori mari, non dico. Non è che sono diversi, no. I radioamatori non è che sono diversi, se hanno le apparecchiature con le ventole, anche loro le trasmettono, non c'è niente da fare, dopo tutto è così. Sì, ma non dico, dove stava arrivando 9+20, io sto ricevendo con la mantova, figura di luce, avevo le antenne adatte, se avevo le antenne adatte cantavi via, non dico, figura mari, io devi consumare poco a pagare l'Enel. Si vede che aveva un bel carico intanto, no, quello lì. E poi, oltre a quello, è inevitabile, purtroppo quando c'è la ventola, anche se la metti lontano, però poi consideri il microfono amplificato, anche a distanza di una stanza da un posto all'altro si sente sempre, non c'è niente da fare. Sono i microfoni che sono troppo sensibili. Sì, ma infatti troppo. No, ma stava pompando proprio, si vedeva che era rendi un bel di gas, stava dando molto gas, perché io sto ricevendo in verticale, sicuramente lui non era in verticale, ma 9+20, caspita, è un segnalone, e visto su questa radio che è abbastanza precisa, gli ho detto bubù, chi più ne ha più ne metta. Sicuramente sì, evidentemente aveva voglia di di spingere forte, per cui va bene così, contento Edo, perché no? Contenti tutti. Ehi, tanto già dico, ognuno faccia quello che vuole, io rimango sempre nelle mie. Va bene così. Vabbè, Lucarie. Sì, aspetta, boh, sento un sei bruciato questo cazzo di telefono, lascialo un attimo qua, se no la puoi posso più danno, aspetta. Ah, addio. Addio telefono. Ehi, io ho un telefono vecchio. Ehi, allora, la pazzia. Mi stavo leggendo un messaggio che mi ha mandato Sandro. Io avevo un principe azzurro e com'era? Era l'uomo più bello del mondo e ti voleva? Sì, mi voleva male dal primo giorno che sono nata, non ci credo, è vero, lui amava me e io lui, davvero? Come si chiamava? Aveva un nome, ma io lo chiamavo papà. Era il padre, c'era il grido che era mamma. Ma oggi è anche la festa del papà, quindi un bel messaggi ci sono da leggere. Vabbè. Questo me l'ha mandato oggi, perché sì, oggi, stamattina, alle 10, prima delle 10, l'ho visto adesso, l'ho visto. Oh, e allora, gappa, e a me stamattina, perché mia figlia era di apertura, era andata presto al bar, quindi me l'ha mandato poco fa, un messaggino, va bene, infatti rientra all'una, pranza, poi ritorna dopo verso le 3 e 4, la razza di freddo che va fuori, roba da matti, primo d'inverno pieno. Sì, no, non sono uscito io, stamattina non sono uscito, ma aprendo la finestra già si è capito subito che c'era molto freddo. D'altronde anche la televisione, il meteo l'aveva comunicato che sarebbe arrivato il freddo, dunque non si sbaglia il meteo. Vabbè, c'è questa perturbazione dalla Norvegia, spero passi più in fretta possibile, perché insomma marzo così freddo io non l'ho mai visto, ma proprio per niente, io stamattina sono uscito a portare il cane, ma non presto, alle 9, 9 e un quarto, c'erano 7 gradi, neanche 8 gradi c'erano, roba da matti. Indubbiamente sì, no, dunque il meteo mi sembra che ha dato massimo nell'ora di punta proprio, se ricordo bene, 11 gradi, adesso non me lo ricordo, ma una cosa del genere, nell'ora di punta proprio quando c'è più caldo. Comunque, si sa, ancora siamo sempre al freddo, la primavera ancora non è arrivata, arriverà a fine mese, anzi, diciamo che arriva fra un paio di giorni, dai, oggi ne abbiamo 19, il 21 mi sembra, no, fra 2 giorni dovremmo essere in primavera, però a noi ci interessa primavera calda, non fredda. Io mi sembra che primavera fredda è leva buru, secondo me, poi non lo so. Mi sa che siamo così, vabbè, comunque, vediamo un po' se cambia il tempo, ma sicuramente quest'anno fa un'estate la paura. Dovrebbe sicuramente fare caldo, io penso che inizi anche da presto a fare caldo, visto considerato come si sta mettendo il tempo, penso che inizia molto presto a fare caldo, però se arriva il caldo l'accettiamo ben volentieri, non c'è problema, ci mancherebbe altro. È interessante che passa il coronavirus, poi per il caldo non ci preoccupa. Ma cosa passa Giulio? Non so se hai sentito le ultime notizie. Sta aumentando, il continente sta aumentando tantissimo. Molti. Sta aumentando un bel. Spero che non ci sia un'altra ripa nuovamente qua in Sardegna. Se ci blindiamo penso di no, ma se diamo appena spazio c'è tutta l'Italia in aumento, ma in aumento alto. Sì, già l'ho sentito, sì. E infatti dovrebbe essere la regione, il presidente della regione, ad essere un pochino più intelligente, perché fino adesso non è che è stato molto intelligente. Sì, adesso vabbè, ha chiuso sino al 6 di Pasqua, al giorno 6, però perché l'hanno costretto, l'ha costretto la sinistra, l'ha costretto, anzi la destra, o che sui, no, la sinistra l'ha costretto a chiudere, scusate, allora la Sardegna diventava di nuovo una regione di untori, come loro ci hanno definito l'anno scorso, che poi noi non avevamo nessuna colpa. Io dico che sarebbe andato un po' di tangenti per tenere aperti i locali, poi non lo so, grazie che mi sto sbagliando, ma io ho quella impressione. Eugenio! Ciao Eugenio, già va bene, dai, mi sono con Claudio. E poi c'è Luca che sta lavorando. Avanti, riprende, vai a girare. Ciao Eugenio, buongiorno, ben ascoltato. Voi siete a casa? Tutto a posto, tutto a posto, nessun problema. Sono ancora qua a Carbonara. Sì, Nagio ancora. Non me ne metto a fretta, Ruggi, te l'ho detto. C'ho tutto imballato, tutto già sistemato. Pronto quando mi danno il via, c'ho ancora i muratori, cosa? È tutta la nettà, tutta la va, ui, non ne ho problemi, poi guarda il tempo com'è, quindi già sto bene qua ancora. Sono tutti fissati gente con tutto il danno, è tutti uguali i giorni danno a me. E sugar, un tanno più tre, oggi, è un tanno più tre. C'ha una leggera spinta in più perché c'è una resistenza nella capsula, ma ce l'ha anche il mio tra più 3B, questo è il, vabbè, è un microfono col K, però anche il mio è così, sono tutti uguali, sì, sono tutti buoni, non c'è problema, cioè, fanno benissimo. Un MC60, MC60 già ce n'è in vendita, vedete, hai preso il K? Copiare cosa al Galaxy? Fine, oggi, mamma mia, non rivolgo in fantascienza, ragazzi. Allora di punire MC60 al Galaxy. Mamma mia, manca te la data che c'è idea. Giulio, aiutami. Cosa posso dire io? ognuno ha messo a modo suo. No, non è da benare, secondo me no. Va bene, un MB più 4, un MB più 5, va bene, anche un Tarne, certo. Ma non l'MC60, cosa te ne fai? L'MC60 sul Galas. Intanto gota più l'MC60 che il Galas. Intanto, no, prima di tutto. Ma a parte questo, no, non ha senso, dai, abbinare un microfono di quella importanza ad un Galas, dai. Ma che Galas è? Saturneco o EOG? Super Siria Kit. Va bene, non ti preoccupare, EOG, vanno bene. Fa FSI, cioè non sono abbinamenti da fare, se non puoi punire un MC60 a un Galaxy. Io farei, ne ho due, anzi ne ho tre di MC60, ma anche il Galaxy, faccio l'adattatore e gli restituisco che cosa ho fatto, cioè sto usando un microfono ad alta fedeltà con un baracchino, ma non esiste. Io te ti ho detto, metti sul Tarn più 3, ci puoi mettere un MB più 5, non più 4, più 5, oppure un bel Tarn più 3, qualsiasi serie, un Tarn più 3B, un Tarn più 3 Super Sidekick, un Tarn più 3 normale, basta sia un Tarn più 3, ok, che abbia un'impedenza alta e ti dà una bellissima modulazione. Ma la sappi lì, ma tu lo sai cosa sto usando io adesso? Io sto usando il 430 della Kenwood, ok, con l'MB più 5, quindi immaginati tu, o il K con l'MB più 5, noti differenza dall'MC60? Io non ne noto differenza. Prenditi o un MB più 5 o un Tarn più 3 di qualsiasi tipo, basta non sia quello grigio, perché quello grigio è un po' così, non mi piace la modulazione. Quello nero, un Tarn più 3B, un Tarn più 3 Super Cider Kick, quello con la testa cromata, che sono tutti uguali, tranne quello nero, quelli neri sono buoni, quello grigio no, non mi piace, ha una modulazione un po' particolare, non lo so. Poi chiaramente per voi, se magari lo prendo io, la modulazione è diversa, perché io spingo un po' più di petto, di acuti, e quindi magari la modulazione va meglio, però come vedi io l'MC60 ce l'ho qua vicino, stamattina non sapevo cosa fare e ho collegato l'MB più 5 al K giusto per provare, questo c'è la connessione diretta, non ha batterie, non ha niente, ha la connessione diretta a 8 volts, quindi funziona come l'MC60. Avanti Giulio. Ok. Oppure ti puoi cercare un USA Delta che va bene anche per il Galaxy o EOG, USA Delta magari lo so, Ecco Master Pro, che è bellino e funziona che è una meraviglia, tutti i Sadenta veramente funzionano bene, anche quello col gambo lucido eccetera, quello con le fiancate rosse, oppure quello grigio che si piega anche il gambo proprio e diventa piatto come la base. E sono bei microfoni, sono OUG, per cui vedi, scegli fra questi, ma non andare oltre, perché intanto è inutile. Se tu mi metti un MC60 non ha senso, dai, non ha senso. Ma questi che abbiamo detto sono eccezionali per quella radio lì. Avanti OUG. Ah, OUG, se non vuoi un MC60 io te lo procuro, ma non lo paghi meno 70-80 euro, è un MC60 usato. Allora, c'era già, poi non l'ha voluto, perché è andato su un altro tipo di microfono. Se tu lo vuoi io chiamo un amico e te lo faccio avere immediatamente, non è un problema quello, ma ti ripeto, è un controsenso, avere un MC60 con un Galaxy. Sul Galaxy va molto bene, come ti ha detto Giulio, i microfoni della Savelta, della Turner, ma anche l'MB più 5 lavora molto bene, perché io ce li ho tutti e due con la connessione Galaxy, sia il più 3 che l'MB più 5, che ha la stessa connessione del DAC, e mi è rimasto il microfono e ti dico che lavora molto molto bene. Ripeto, poi chiaramente si sanno, io rispetto magari a qualche un altro ho la modulazione con più acuti, però lavora molto bene il microfono. Vai Giulio. Sì, ma infatti è così, vanno bene, oltre al fatto che non spendi un patrimonio e lo compri nuovo con 70 euro per dire un MB più 5, no? È un ultimo microfono, dai. Io lo stesso in questo momento io sto usando l'MB più 4 mio OUG e l'ho abbinato al K, sì, che vedi bene che funzionano benissimo anche con l'apparecchio professionale, per cui lo so come, se ti piace questa mia modulazione, ma suppongo che non c'è niente da dire, va bene con me. Avanti OUG. MC60 ne hanno fatto due modelli, un MC60 di vecchia generazione, ma io MC60 senza preamplificazione non ne ho mai visto, ci ho già sentito queste cose, mi sembra un po' non... Io dal 1987 che uso l'MC60 e quando si parla di MC60 è MC60, che sia A che sia B, non c'è scritto A. Quest'anno ho capito da dove l'avete tolta, non so. Io l'MC60 conosco solo l'MC60 col circuito di preamplificazione. L'unico microfono che è della Kenwood che non è preamplificato è l'MC50, che ho anche quello. Quello è da tavolo uguale all'MC60, diverso colore perché è fatto dalla Trio Kenwood, e non è preamplificato, ma tutti gli MC60 da quando sono nati sono tutti preamplificati. Non esiste MC60 di categoria A o categoria B, sono tutti preamplificati. Cosa vuol dire oggi non ha l'affare della batteria sotto? Anche questa è una cosa che dovete scordarvi. Tutti gli MC60 hanno la sede della batteria all'interno. Perché? Perché se tu usi l'MC60 su una radio che non è Kenwood, che non è ICOM, che non è IAESU, che hanno gli 8 volts, quindi prendono l'alimento, i microfoni a 8 pin, prendono l'alimentazione diretta dalla radio. La Kenwood ha fatto l'MC60 con la sede batterie per usarlo su radio HF di vecchia generazione che non hanno l'alimentazione diretta. O sbaglio Giulio? Sì, certo. E adesso questo è l'MC60 OUG. Sto usando adesso in questo momento l'MC60. Non so se è regolato bene. Comunque te lo sto facendo sentire. Vai OUG. Allora, se tu ti compri un MC60 e lo devi usare col Galaxy Saturn Echo, devi fare la connessione a 4 e usare le batterie nella sede apposita, ok? Perché non avendo l'alimentazione diretta dalla radio hai bisogno di alimentare il circuito di preamplificazione con le batterie, quindi devi mettere le batterie. A senso contrario, se tu vai ad usare un K, devi togliere dalla sede, dall'apposita sede che tu hai messo le batterie, devi toglierle ed usare gli 8 pin che colleghi alla radio e ti viene alimentato automaticamente anche il circuito di preamplificazione del microfono. A questo serve la serie delle batterie oggi, solo per usarlo su un baracchino, un MC60, oppure se lo usi su un HF, su un K, le batterie le devi togliere. Ma a queste cose state molto attenti perché potete rovinare il microfono. Tu stai parlando dell'MC60 che ha preso Emiliano, quello è un MC60 che è stato camuffato, capito? Praticamente cosa è stato fatto? Ha comprato un MC60 con tutta la base, carcassa, microfono MC60, ma all'interno lì, all'interno della propria sede, non c'è circuito di preamplificazione. Automaticamente è un microfono MC60 da tavolo, ok, senza nessuna preamplificazione, normale. Ma l'hanno fatto così, non è nato così. Quello è stato tolto, il circuito di preamplificazione, e messo un circuito appunto di un altro tipo di microfono, anche può darsi dell'MC50, per avere il 60 normale. Ma sono modifiche che si fanno, non nasce così l'MC60. Io questo amico faccio una telefonata e me lo porta anche oggi il microfono, non c'è un problema, perché qua a Sassari aveva venduto tutto, gli erano rimasti i microfoni, di cui uno gliel'avevo già fatto vendere e ne ha un altro. Quindi se lo vuoi me lo confermi, io lo chiamo, sali e te lo prendi, oppure ci vediamo e te lo do, non è un problema, capito? Su quello no, non ci sono problemi, però è una tua scelta, capito? Se te lo vuoi prendere, te lo prendi e vedi un po', però ricordati, se lo usi col Saturn Echo devi usare l'MC60 con le batterie, se lo usi su un K le batterie le devi togliere, altrimenti rovini il circuito di preamplificazione. Vai Giulio. Ok, oggi se l'hai visto, no? Perché li ho messi tutti e due vicino, io uso questi due, però principalmente uso lo ZG, cioè l'MB più 4, perché mi dicono che la mia voce si adatta di più a quel microfono lì, anche perché questo è molto più sensibile di quello che sto usando adesso, cioè l'MC60, no? Tant'è vero, se parlano giù dal piano di sotto a casa si sentono lo stesso, nonostante che io sono al piano di sopra, per dire, no? E va bene così. Comunque, questo è l'MC60, l'MB più 4, l'hai sentito? Tieni presente che l'MB più 4 che ho io è forse una delle prime versioni, tant'è vero, avrai potuto notare che ha la capsula, evidentemente quella grande, ceramica, non è quella a condensatore, sicuramente così. Avanti, Eugene. Non c'è nessun problema, a me basta la parola della persona, quindi non ti preoccupare per quello, me lo faccio portare, glielo pago e poi quando ce l'ho qua ti telefono, ci vediamo e te lo do, non è un problema, ma non ti preoccupare, no, non ce n'è problema neanche per me, guarda, figurati, se sto pensando alle 70 o alle 80 euro, no, non ti preoccupare, mi arrangio io, quando ce l'ho qua ti chiamo, ci vediamo e te lo do, capito, no? Posso anche scendere io, ci vediamo a metà strada, ci vediamo, insomma te lo do, cioè, non ti preoccupare, fammelo chiamare perché adesso è al lavoro, dopo quando esci al lavoro lo chiamo e me lo faccio portare, ma figurati, ma di cosa stiamo parlando, no, non c'è nessun problema da parte mia, assolutamente. KK, sì Giulia, ma io guarda, questo è l'MB più 5 che è nuovo, quello appunto marcato c'è, nuovo, l'avevo comprato per una radio, poi un giorno abbiamo deciso di farle, che non l'ho fatto io, l'ha fatto Fabrizio, ed è praticamente col cavetto diretto, questo era di Massimiliano, l'avevo preso da lui, l'aveva comprato per il K, poi si era comprato il 60, ma l'ha dato a me, l'ho comprato io, ed è praticamente è connessione diretta, alimentazione diretta dal K, connessione a 8 col cavetto singolo a 8, insomma come un 60, e va benissimo. In alternativa, uno che non ha un 60 si compra un K, può usare un microfono del genere, io ce ne ho uno di 60, però ogni tanto questo lo uso perché è bella anche la modulazione, mi piace come esce. Vai Giulio. Sì, ma indubbiamente sono buoni i microfoni, non c'è niente da dire, ci mancherebbe. E poi tra l'altro appunto si abbinano molto bene anche alla radio professionale, vanno benissimo, non c'è problema. Anche il tanner comunque, se tu trovi un tanner, come stavo dicendo, se ti piace compratelo lo stesso, oltre al livello MC60 e UG, perché anche il tanner si abbina molto bene anche alla radio professionale, non ci sono dubbi. Però non mi hai detto quale ti piace di più della mia modulazione, questo con l'MC60 o quello di prima che stavo usando l'MB+4, quindi non me l'hai detto quale ti piace di più. E questa magari ha più toni alti sicuramente, a me l'altra mi dà un po' di bassi, io nella voce non ne ho, toni bassi non ne possiedo, per cui questo microfono dice esattamente com'è la mia voce, mentre invece quando metto l'MB+4 quella con un po' di toni bassi me li dà. E adesso al prossimo passaggio tiene presente questa la modulazione, al prossimo passaggio ti faccio risentire l'MB+4. Avanti qua. Sì, si conferma, è così. Ma attenzione che non c'è, ripeto, non c'è molta differenza, Non c'è molta differenza, perlomeno io non noto questa grande differenza oggi. Dal +5 col K all'MC60 c'è una corposità diversa di timbrica, forse c'è un po' più di medio bassi, ma come spinta microfonica ti posso garantire che spinge tantissimo. Avanti Eugenio. No, c'ha due batterie stilo, adesso mi ricordo se sono due o quattro, lo sai, non me lo ricordo, comunque c'ha le batterie quelle stilo, non mini stilo, stilo. Ok, c'è la sua sede e le metti dentro. E adesso controllo se praticamente, glielo dico, se praticamente ha la sede batterie, perché stai attento, non tutti gli MC60 hanno la sede batterie. Non è che io ad esempio ne ho due, di cui uno ha sì la sede batterie, l'altro invece non ce l'ha, capito? Però adesso quando lo chiamo, allora di Franco, adesso è ancora al lavoro, che sia le due, dopo lo chiamo, glielo dico di controllare se c'è la sede batterie, capito? Sì, ok, già siamo qua, non c'è problema, ti mando un messaggio su WhatsApp e ti avviso, capito? Va bene, avanti Giulio. Ok, adesso sono tornato con l'MB+4 e oggi questo è l'MB+4 di nuovo, sicché fai un po' la proporzione fra l'uno e l'altro, fra un microfono e l'altro. Io ho lo stesso, questo l'avevo fatto io, l'abbinamento all'MB4, lo sto usando con la batteria, però Claudio, non ho preso l'alimentazione direttamente dalla radio, ho fatto solamente un cavetto, una prolunga, dai, che poi tra l'altro è abbastanza lunga, perché mi dispiaceva tagliarlo questo cavo, perché è un cavo a otto contatti, e allora ne ho utilizzato solo quattro per avere l'MB4 così. Però, ripeto, con la batteria sua originale dell'MB4, non con l'alimentazione dalla radio, va bene così. Comunque, per la cronaca, mentre l'altro era direttamente dalla radio, l'alimentazione, cioè l'MC60, questo no, questo lo sto usando con la batteria sua nel microfono, niente alimentazione presa dalla radio. Avanti oggi. Sì, beh certo, quello sì, è una questione, lo so, non è che ci può essere una differenza sostanziale fra un microfono e l'altro, la mia voce è quella e basta, no? Non è che posso cambiarla. Ripeto, solo che questa, l'MB4, possiede qualche tono medio, diciamo, medio-basso, e allora mi si addice anche di più forse, perché io ripeto, nella voce ho solo toni alti, non ne ho toni bassi, e allora è quello il problema. Vabbè, comunque interessante che si senta bene, chiaro, pulito, senza interferenze, senza rumori e rumoracci, come tanti microfoni sento tante volte. Va bene, dai. Cosa dire? Avanti qua. Dimmi. No, alle punti abito io, non a ottava, alle punti. No, io abito alle punti, nella parte diciamo più antica, diciamo, dai, delle punti. Praticamente sono vicino alla chiesa, in linea d'aria della chiesa sono, se no, 200 metri. però nella strada parallela, non nella strada della chiesa, nella strada parallela a quella della chiesa. Non so se sai dove c'è la scuola guida, lo sai dove c'è la scuola guida. E allora vedi dove c'è la chiesa, tu giri a sinistra in una salitina e subito dopo a destra. Io abito lì, in quella via. Va bene, avanti qua. Va bene, va bene. Ok, allora nel mio ci sono praticamente la sede delle batterie, sono due stilo da... quelle da... cosa sono quelle stilo? Porca miseria ladra. Giulio, cosa sono quelle di stilo? Da 1,5? Sì, da 1,5, certo. Ok, 1,5 allora sono, dai. Bravo, bravo. Non sono proprio di fronte, perché c'è Vanali, un po' più in qua, un po' più in qua, indietro, poi c'è la scuola guida, altri 20 metri, anzi anche di meno, forse 10 metri, 15 metri massimo, abito io di fronte. Lucia, chi è Lucia? Non la conosco, perché non conosce nessuno di quella zona. Ah, boh, no, non la conosco, no. Non la conosco assolutamente. Io da Vanali ci sono entrato in tanti anni che abito qua, ci sono entrato se no 3 volte, 4 volte, non di più. Perché di solito quando va in pasticceria ci va sempre mia figlia, ma io no, io non conosco nessuno, perché qualcuno così del vicinato e basta, però non conosco molta gente qui, capito? Nonostante che io ho le punti tra la casa vecchia e questa ci abito c'è quasi 50 anni, mi. Da 71, fatelo conto, quasi, senza quasi, 50 anni a agosto o settembre o cosa del genere, si può immaginare. E non si beccuti una tutta faccia per cui. No. E vabbè, dai, comunque. Ho capito comunque, adesso hai capito dove sono. Perché Vanali è proprio di fronte alla piazzetta, diciamo così, dai, chiamiamola piazzetta, che poi è sempre la stessa via, è sempre la stessa via, via Ettore Mura la mia, via Ettore Mura di fronte a Vanali, sempre tutta la stessa via. Va bene, avanti, oh Claudio. Sì, K, dai, io vi lascio, vi saluto, vi auguro buon pranzo a tutti perché è già lunedì 10, sta per arrivare mia figlia e vado a pranzo. Dai, ciao Eugenio, ti faccio sapere allora, ti aggiorno dopo, ok? Va bene, ciao anche a Giulio e ciao anche a tutti quelli che sono ascolti. Buon pranzo a tutti e a stasera se coincide, ciao ciao. Non ho capito, con quanti watt sto scendendo, perché ti sto arrivando? Sto andando con 10 watt, io non è che devo stare 10 watt, modulati intorno ai 20-25, questa radio adesso è nuova e voglio cercare di non spingerla molto, ho capito. Ehi, appennette con i broccoli, quindi se vuoi salire non c'è problema. Ciao a tutti, buon pranzo. Ok, ciao qua, ci sentiamo, ciao. Va bene, dai. Oggi mandami la fotografia di quel baracchino che stai usando, di quel Turner, cioè di quel Galaxy Saturn. Ok. Mi sembra che per errore ci avevo mandato anche qualche canzone, forse di sardo, vabbè, ne ho diverse. Comunque mi sembra che è partita la cosa, la parte, anziché per un'altra persona. Stavo chiamando mio fratello, invece avevo schiacciato per te. Ok, vabbè, dai. Un video mi sembra che era. Un video, se ricordo bene, vabbè, comunque. Sì, perché le stavo chiedendo informazioni su quel video, perché sono cose di mio fratello, non sono cose mie. Io sono betonato, per cui non canto io sono betonato come tra la campana di Santa Maria, anzi peggio. Per cui va bene così. Avanti, vediamo un po'. Vabbè, ma io sono pure più il numero uno degli stonati, per carità, mamma mia. Se canto io più di più, un bel più, a 4 ore a non finire. Adesso guardo, Sì, è bello. Sembra anche abbastanza nuovo, oggi. Ok. Va bene, dai. Molto bello. Ma prima non avevi l'Uranus, avevi anche quello, ce l'hai sempre. sì, per giù, io ce l'ho uguale, io ho il coso, il Sommer Camp 789 della, che è uguale all'Uranus, con tutti quei tasti, un poco complicato, però già si può usare tranquillamente, non c'è problema. Ok, d'accordo. Se mi stai ascoltando, mi hanno chiamato per il pranzo, dai, ci sentiamo eventualmente stasera se coincide, ok? Ciao, ciao, grazie altrettanto, ciao. La modulazione tua? Beh, non è un segnale basso, Santiago 7 ti sta ascoltando, di segnale modulati 8, e la radio non è molto amplificata, ma comunque quello anche l'eco, volendo, che forse amplifica leggermente, però è meglio non usarlo mai l'eco, perché non è che sia un granché, cioè è bello, sia ben chiaro, però non so se funziona bene lì. E infatti non spinge più di tanto, sembra un microfono normale, sembra. E prova a cambiare il microfono, magari come uno di quelli che ti ho detto, un Sadelta o un Turner, sicuramente migliorerà, non ci sono dubbi. Ok, dimmi piuttosto, io di segnale come ti sto arrivando lì in quella radio lì, come segna il tuo smitter, vai, e dopo chiudo, ciao. Più o meno allora si equivalgono i segnali, sì, siamo più o meno così. Ok, ciao, buon pranzo, ci sentiamo, ciao.